Data Breach, meazza, matai la su. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Siamo stati testimoni di migliaia di gesti solidali, coraggiosi, di testimonianze di altruismo, di abnegazione, spesso di felice inventiva nell'aiuto a chi ne aveva bisogno. Si è manifestato un patrimonio morale presente nel nostro paese, spesso sommerso, che va esaltato, che va posto a frutto. È il sommerso del bene, che va fatto affiorare, va fatto prevalere, affinché caratterizzi in modo positivo la ricostruzione che attende la nostra società. Buongiorno Deborah, vedo che abbiamo voluto cominciare Mauro. Con una voce istituzionale, la massima voce istituzionale possibile, il Presidente della Repubblica Mattarella. Come mai questa scelta, Deborah? Esatto, era un momento solenne. Allora, abbiamo ripreso le dichiarazioni del Presidente della Repubblica rilasciate il 2 giugno a Codogno, quando in occasione della festa della Repubblica appunto si è recato in questo luogo simbolo dell'inizio della pandemia per conferire le onorificenze di Cavaliere al Merito della Repubblica. E tra le persone che hanno ricevuto appunto questa onorificenza ce n'era anche una che ci piace segnalare questa mattina, perché ci sembrava estremamente carino farlo in occasione del tema che abbiamo scelto da approfondire per il nostro programma. Concetta Di Santo, addetta alle pulizie in un ospedale milanese, fa parte di quella schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel corso dell'emergenza. C'era pure anche lei tra le personalità che nel loro campo si sono impegnate durante l'emergenza coronavirus e che il Presidente della Repubblica, appunto Mattarella, ha voluto insignire di questa onorificenza. E allora noi salutiamo sicuramente Concetta, salutiamo tutte le persone che lavorano nel settore delle pulizie, compresi anche gli amici che ci aiutano nell'edificio appunto del Sole 24 ore, che non hanno mai fermato la loro attività. E allora perché abbiamo voluto proprio dedicarci a queste persone oggi, Mauro? Perché oggi vogliamo parlare del settore della sanificazione, pulizia e sanificazione, ma soprattutto la sanificazione, perché con questa vicenda del coronavirus c'è una domanda che è esplosa letteralmente, e quindi bisogna un po' conoscere questo mondo che non è soltanto, per così dire, l'addetto alla pulizia, che magari figure che consideriamo anche poco nei nostri uffici, ma invece che adesso è chiamata a uno sforzo particolare. E allora avremo proprio ospiti il presidente di ANIP, che è l'Associazione Nazionale di Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, di ANIP Confindustria, Lorenzo Mattioli, il quale in occasione di questo discorso di Mattarella, di cui abbiamo ascoltato l'estratto, ha ringraziato a nome delle imprese, dei servizi e degli oltre 500.000 addetti del settore il presidente Sergio Mattarella per aver riconosciuto questa onorificenza. E tra l'altro un settore, abbiamo detto, 500.000 addetti, ma che sembra anche adesso aprire degli spazi, e poiché noi siamo, cerchiamo di essere attenti anche a quelli che possono diventare degli spazi interessanti di lavoro, di attività, allora vogliamo parlarne proprio oggi sia con il presidente Mattioli e sia anche con un operatore del settore. Li avremo ospiti tra qualche minuto. Io intanto posso ricordare i numeri per entrare in contatto con noi: 800 24 00 24, è come sempre il nostro numero verde, e invece per i vostri sms o messaggi via WhatsApp, quindi anche vocali, 349 238 6666. Naturalmente Deborah, faremo un giornale radio del risparmio, però prima di buttarci, di tuffarci nel nostro dov'è il nuovo lavoro, mi sembra il consueto minimo sindacale. Partiamo. Amore, i soldi. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young. Vabbè, diciamo che il settore degli, come dire, il mondo degli artisti italiani ha un endorsement, come si dice in questo caso, di tutto rispetto, Mauro. Ma è incredibile che Paul McCartney, insomma, si sia pronunciato nelle ultime ore, Sir Paul Sir McCartney. Sì, appunto, pronunciato, esatto, deve dire il cognome. Ha detto, ma non lo so, io lo direi così. Comunque, insomma, quel signore lì, ve lo ricordate, suonava il basso in un gruppo molto famoso negli anni 60. Allora, quel signore lì, che è anche un compositore, ha dichiarato, ma è scandaloso che chi ha pagato un biglietto ma per uno show non possa riavere i soldi. Tra l'altro, l'ha citato anche Alessandro Milan poco fa, noi ci ritorniamo sopra perché vorremmo dare qualche indicazione. Si è dichiarato fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Asso Musica si è impermalito, perché abbiamo questa norma che, come sapete, ce ne siamo già occupati, probabilmente torneremo ad occuparcene, consente di come dire, riconoscere un voucher al posto del rimborso per il biglietto dello spettacolo che è stato annullato. Quello di Paul McCartney è uno degli spettacoli annullati. Esattamente. Massimiliano Dona, come esperto dei Beatles, no scusami, come presidente dell'Unione Nazionale ma magari Consumatori. Lo è, non glielo abbiamo mai chiesto peraltro, quindi magari lo è anche comunque, esperto dei Beatles. No, comunque Massimiliano Dona è intervenuto come presidente dell'Unione Nazionale Consumatori dicendo, ecco, tutti gli artisti dovrebbero condividere questa posizione di McCartney e unirsi ai consumatori in questa battaglia. E vedremo se in qualche modo anche la perorazione da così alto nome, sarà accolta in qualche modo, magari dal Parlamento. Insomma, avremo sicuramente qualche fan dei Beatles anche in Parlamento, magari nel discutere del decreto legge rilancio troveremo il modo di modificare forse questa norma, ma forse no. E questa era la prima notizia. Esatto, no, insisto per un attimo su questo punto, perché Massimiliano Dona, l'avvocato Dona, solleva questo aspetto. Lui dice: la cosa più assurda è che mentre per i pacchetti turistici e i voli aerei l'articolo 88 bis del decreto Cura Italia offre l'alternativa fra voucher e rimborso del corrispettivo versato, nel caso degli spettacoli questo non avviene. Perché ho sollevato questo aspetto? Perché continua ad arrivarci tantissime mail di casi di tanti ascoltatori che appunto stanno rinviando, se non rinunciando del tutto, a delle vacanze, viaggi programmati per l'estate, ricevendo però anche in questo caso delle risposte un po' vaghe dagli operatori, e quindi dovremmo probabilmente anche tornarci. Proprio poco fa ci è arrivata l'ennesima mail di un ascoltatore che aveva in programma di fare un articolato viaggio negli Stati Uniti, ma per le note circostanze sta rinunciando, ma le compagnie aeree, per esempio, molte rimborsano integralmente, molte invece dicono di aver confermato per esempio i voli. Nella fattispecie l'ascoltatore segnala il caso di Emirates, e quindi non si ritengono appunto in dovere di rimborsare questi viaggi a cui molte persone stanno rinunciando. Dovremmo tornarci, perché credo che la questione appunto monterà ulteriormente. Mauro. E intanto che le frontiere piano piano riaprono, ad esempio non è ancora riaperta la frontiera per la deliziosa Elisabetta Fusconi, detta Baba, che questa mattina coadiuva l'onnipresente e l'onnisciente Marco Lombardo per realizzare questo programma. Questa mattina in regia vigila naturalmente Peter Bescapè. Dicevo, la frontiera ad esempio con la Svizzera non è ancora riaperta, quindi Baba può venire in Italia, però mi raccomando, Baba, non fare la spesa, perché lo sai che poi i doganieri del tuo paese ti blindano. Quindi sii prudente, però via via che riaprono le frontiere diventa anche interessante cominciare a ragionare ad esempio delle attività formative. E l'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, segnala che le attività per gli stage in Europa, le opportunità, stanno ripartendo e vengono segnalate da Stage4EU, è scritto Stage4EU. È un'applicazione completamente gratuita, gestita proprio da INAP, ed è uno strumento che si rivolge a giovani che devono fare un'esperienza di stage in Europa, ma anche a tutti gli operatori del placement e dell'orientamento. Grazie a questo Stage4EU è possibile consultare le più interessanti opportunità di tirocinio in Europa, che vengono aggiornate quotidianamente appunto in questa applicazione. Opportunità di tirocinio nelle maggiori organizzazioni internazionali e anche in aziende multinazionali. Tutto questo la segnalazione da INAP, dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Dalle segnalazioni di INAP a quelle tratte dalle pagine delle Sole 24 Ore, segnalo ai nostri ascoltatori il pezzo di Mauro Pizzin di oggi, che ci racconta cosa indica un'indagine portata avanti da Manpower Group, anche in questo caso una grande agenzia per il lavoro. Una ricognizione effettuata su un campione rappresentativo di 551 aziende di diversa dimensione, aziende impegnate in 7 settori industriali. Cosa dicono? Insomma, le previsioni sul prossimo trimestre del 2020, sul terzo, non sono proprio positive in relazione all'occupazione. È una ricerca che ha preso anche a riferimento parametri abbastanza specifici, come la previsione netta sull'occupazione calcolata sottraendo dalla percentuale di datori che prevedono un aumento delle assunzioni totali la percentuale di coloro che prospettano invece una diminuzione delle assunzioni per il trimestre successivo. Una cosa un po' complicata per portarci a questo risultato finale. Un calo del 5% in cui si è tenuto conto anche degli aggiustamenti stagionali, quindi una situazione che viene definita anomala rispetto al passato anche meno recente, perché generalmente magari in estate insomma le previsioni sono positive anche grazie agli stagionali, invece quest'anno chiaramente a causa della situazione che conosciamo il quadro previsionale che le aziende si sentono di fare non è proprio brillante, e quindi segnalo appunto di leggere questa indagine, che ha degli aspetti piuttosto interessanti. Ancora una volta è l'ennesima agenzia per il lavoro che peraltro chiede un intervento coraggioso dello Stato, non solo in termini di investimenti produttivi ma anche e soprattutto a livello normativo, e ha un'apertura ad un modello di governance che possa coniugare produttività, occupazione e crescita. Si chiede una ricetta complessa, un po' come hanno fatto Mauro gli ospiti che ieri abbiamo avuto il piacere di intervistare nel Welfare and HR Summit delle Sole 24 Ore. È proprio così, infatti ieri siamo stati moderatori in coppia, Deborah ed io, di questo evento digitale organizzato da Sole 24 Ore, al quale hanno preso parte esperti del mondo del lavoro, direttori del personale, rappresentanti delle organizzazioni e anche molti avvocati giuslavoristi, consulenti del lavoro. Tutto questo sarà presto visibile su Stream 24, cioè il nostro canale video che trovate sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Nei prossimi giorni verrà messo a disposizione il filmato, quindi anche chi non ha potuto ieri vederlo in diretta potrà utilizzarlo. Preciso, è un evento che viene fornito in modo gratuito, quindi non è necessario iscriversi o abbonarsi ad alcunché. È invece necessario abbonarsi se volete leggere ad esempio il Sole 24 Ore direttamente dal nostro sito. È una delle cose che vi viene offerta e resa possibile dal nostro abbonamento. Cara Deborah, a questo punto sono già le 11:20, il tempo vola e allora quando ci si diverte, tralasciando le molti messaggi su Paul McCartney, qualcuno dice ma devo chiedere rimborso entro il 17 giugno, e guardi, in questo momento purtroppo la norma è così, l'auspicio è che magari il Parlamento possa intervenire anche ex post, come si dice, non sarebbe la prima volta, vedremo che cosa potrà succedere. Molti ci stanno anche scrivendo per quanto riguarda i viaggi, segniamocelo Deborah, dobbiamo ritornarci, ho capito che sarà uno dei temi caldi di questa estate. Però tutto ciò premesso, è il momento di parlare invece di un settore che è in espansione, cerchiamo di conoscerlo meglio con la nostra rubrica del mercoledì, Dov'è il nuovo lavoro? Dov'è il nuovo lavoro? Eh sì, insomma, ci siamo stressati un po' tutti intanto nel pulire in maniera forse come non abbiamo mai fatto in passato le nostre abitazioni, la sanificazione, la detersione, la pulizia degli ambienti è diventata necessariamente l'ossessione di tutti negli ultimi mesi a causa delle ragioni appunto che non stiamo qui di nuovo a riepilogare perché ne abbiamo fin sopra i capelli. Il punto è che però questa buona abitudine che tutti noi abbiamo adesso adottato, nel caso non l'avessimo prima, in realtà è diventato un po' anche settore di tendenza per quello che riguarda la nuova occupazione, se vogliamo, no? Perché certamente appunto in questo campo molte aziende si sono date da fare e sono, come dire, aziende che non hanno trovato crisi nelle settimane della pandemia, come invece è capitato magari ad altri settori economico-produttivi. Tutto questo per introdurre appunto il tema di oggi, come diceva Mauro in apertura, quello dei servizi di pulizia. Era già il vostro settore o state pensando di cercare lavoro in questo ambito in seguito all'emergenza Covid? Chiaramente stimoliamo anche un intervento dei nostri ascoltatori nel caso in cui siano già impiegati in questo campo o nel caso in cui magari rimasti senza lavoro guardino a questo settore come possibile settore di impiego. E chissà che tipo di competenze sono ricercate dal comparto, Mauro. Direi di interpellare subito i nostri ospiti. Esatto, e diamo il benvenuto allora a Lorenzo Mattioli, che è presidente di ANIP Confindustria. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, presidente. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per questo collegamento e per questa opportunità che ci date questa mattina di parlare di un tema a noi molto caro e molto importante per il Paese. Abbiamo in collegamento anche un operatore del settore che è Massimo Diamante, che è l'amministratore delegato di Samsic Italia. È un gruppo che aggrega sia competenze tecniche sia competenze professionali proprio nel settore del cleaning, sanificazione e disinfezione. Tra l'altro diversi ascoltatori, Deborah, ci stanno già dicendo attenzione perché i termini non sono equivalenti, non usateli come sinonimi. Allora, dottor Diamante, innanzitutto benvenuto. Ottimo. A Due di Denari e poi avrà modo di spiegarcelo direttamente lei. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno agli radioascoltatori. Allora, Deborah, che cosa vuoi sapere come prima cosa? Abbiamo già detto che parliamo di un settore con 500.000 addetti, però forse c'è un pochino magari di confusione, soprattutto nella mia testa, perché, come mi segnala qualche ascoltatore, fate attenzione con i termini. Una cosa è la pulizia, una cosa è la sanificazione. Certo. Quindi, che differenza c'è? Che preparazione serve? Perché magari qualcuno vorrebbe improvvisarsi, ma non basta la buona volontà, serve anche la competenza. È così, giusto, presidente Mattioli? Intanto mi faccio fare un brevissimo spot dell'associazione dell'ANIP Confindustria, come ha ricordato lei, la ringrazio. Noi abbiamo lanciato uno slogan, in buone mani, hashtag in buone mani, e il nostro slogan è la sanificazione in buone mani. Abbiamo attivato un contact center, lo 0659 12 531, e una mail che è covid19@associazione-medio-anip.it. Questo perché? Perché noi fin dall'inizio ci siamo subito attivati con una task force, abbiamo ritenuto che fosse indispensabile, ha detto bene lei, il nostro settore non si è fermato, anzi ha quintuplicato il lavoro certamente, un settore che è rappresentato da più di 500.000 operatori nel mondo delle pulizie, questo è un dato ufficiale, un dato Istat, e che ha avuto un incremento in questi tre mesi di lockdown superiore al 40%, e quindi questo è sicuramente un dato molto importante per voi questa mattina per la vostra trasmissione, visto che il segnale che vogliamo dare al Paese e ai ragazzi è che questo è un settore in crescita dove è possibile trovare certamente un posto di lavoro. E aggiungerei anche che sempre secondo l'Agenzia Lavoro i candidati oggi più del 40% sarebbero disponibili addirittura a cambiare città. Ecco, questo mi sembra un altro dato molto interessante. Sì. Un ultimo dato, poi giuro che mi taccio, che secondo me merita uno spunto di riflessione, è una ricerca che presenteremo a brevissimo, però vi diamo un'anteprima assoluta, che riguarda il CRESME, ha fatto un lavoro molto importante per noi, dove noi abbiamo, il CRESME ha quantificato in 2.000 milioni di metri quadri, quindi 2 miliardi di metri quadri, le superfici in Italia che necessitano di essere pulite e quindi devono avere un processo di sanificazione o meglio di disinfezione, come spiegherà meglio di me anche Massimo Diamante, che tra l'altro approfitto per salutare e ringraziare. Prima di andare a Diamante, Mattioli, volevo chiederle anche di chiarire un altro aspetto. Peraltro ne scriveva Mauro anche il nostro collega Francesco Prisco qualche settimana fa sul Sole 24 Ore, specificando la differenziazione che va fatta tra il business della sanificazione nel comparto pubblico e in quello privato. E quando parliamo appunto di pubblico si parla soprattutto di ambito ospedaliero. Quando invece parliamo di privato, dottor Mattioli, di che cosa parliamo appunto e, come dire, il vostro business è distribuito in maniera equa fra i due comparti? C'è uno, tra virgolette, sbilanciamento? Siete più attivi nel settore pubblico rispetto a quello privato, oppure non ha senso fare una differenziazione di questo genere? Allora guardi, intanto non ha senso, nel senso che questo, chiaramente le aziende abbracciano tutto l'intero comparto, e quindi ci sono aziende più specializzate nella parte pubblica, per esempio ospedaliera, ci sono aziende, ha ricordato lei, Mattarella ha voluto premiare una signora che lavora per una delle nostre aziende associate, che diciamo è stata un eroe, una delle tante eroi, parliamo di centinaia di migliaia di operatori che hanno operato dentro gli ospedali e partecipano ai reparti Covid-19. Ci sono invece poi aziende che operano prevalentemente in un settore privato, per esempio l'azienda di cui poi dopo parlerà il dottor Diamante è una di queste, dove certamente il privato prima di altri ha dovuto adottare delle pratiche corrette, delle best practice per la sanificazione, o meglio, come giustamente qualche ascoltatore le ricordava, per la disinfezione. Ecco, però mi lasci dire che noi in questi mesi abbiamo cercato di sdoganare questa parola. Quando è iniziata questa crisi, ricordo una puntata di una sua collega giornalista, sempre di Radio 24, la mattina presto, alla Tella, dove parlava di questa parola sanificazione come di una brutta parola. Ecco, no, in realtà è una bella parola che ha salvato la vita a tante persone, che sta continuando a salvare la vita e soprattutto che sta cambiando profondamente i nostri stili e i nostri costumi. E quindi, tornando alla sua domanda sul privato, ci sono centinaia di migliaia di aziende che sono ripartite, hanno potuto riaprire, i battenti, una fra tutti, mi faccia dire l'FC Auto, perché ovviamente hanno messo in atto, in pratica, un protocollo e delle linee guida sulla sanificazione in grado di garantire l'assoluta tranquillità e serenità per i lavoratori e quindi per l'azienda, che certamente lì non è possibile prendersi il Covid-19. 2 miliardi di metri quadri di superfici da gestire non sono uno scherzo. Quindi, dottor Presidente Mattioli, c'è richiesta di personale, c'è facilità di assorbimento di personale? Assolutamente sì. La ringrazio, perché poi lei, dottor Meazza, è sempre attento sui numeri. Io la conosco appunto per la sua qualità numerica. Ecco, quindi questo numero, diciamo che non fa tanto pandan, o come si dice a Roma, dalle parti mie scopa, con i pochi soldi messi a disposizione nel Cura Italia, all'inizio ricordo 47 milioni, diventati poi 200 nel decreto rilancio, ma ancora assolutamente insufficienti. Se lei considera che una passata media, una sola passata di disinfezione o di sanificazione ha un valore di 1,20 euro, contati male ci vogliono più di 2 miliardi. Ecco, quindi capisce bene che questo numero è molto molto molto distante da quelle che sono oggi le reali esigenze. Noi, avrà letto proprio l'altro giorno, anzi ieri, abbiamo lanciato un nuovo appello alla, adesso va di moda, tutti vogliono attaccare la task force. Noi fin dall'inizio abbiamo detto al governo: attenzione, perché nella task force manca un esperto di questo settore. E siamo delusi dal risultato, non la metto da un punto di vista politico né tantomeno dei tecnici, non mi appassiona questa polemica. Mi appassiona il fatto che non si sta comprendendo che in Italia ci sono 2.000 milioni di metri quadri che richiedono un intervento, vi faccio dire, uno fra tutto, le scuole, di cui in queste ore non si parla o si parla a proposito, tutt'oggi sono ancora chiuse perché nessuno le sta sanificando. Nessuno ha intenzione di sanificarle e soprattutto con il processo di internalizzazione che hanno avviato purtroppo prima del lockdown non c'è un personale competente e preparato per fare questa attività. Cioè, per non parlare poi di tutte quelle attività, adesso abbiamo una pausa ma magari poi ne parleremo, che hanno dovuto adattarsi anche ai criteri di sanificazione senza magari averlo mai fatto prima, ma non perché fossero ambienti non puliti, ma proprio perché adesso l'azione che si è dovuta fare è stata diversa dal passato, appunto più professionale se vogliamo. Pensiamo ai bar che hanno riaperto, le parrucchierie locali che ovviamente sono già sempre particolarmente puliti e disinfettati ovviamente, ma che hanno dovuto, per riaprire, eseguire lavori aggiuntivi per mano appunto di operatori professionali, per cui insomma è un tema sicuramente interessante da approfondire anche questo. Sì. Anche per questo, se posso, rapidissimamente, stiamo per lanciare il primo manuale delle pulizie della disinfezione, quindi la sanificazione in Italia Covid-19, quindi le buone pratiche igieniche nei confronti della SARS-CoV-2. Ci siamo avvalsi come task force, abbiamo fatto un accordo con la più importante associazione italiana dell'Hospital Clinical Risk Management, che è l'HC.RS, con il professor Alberto Firenze, che tra l'altro ringrazio, e tra pochi giorni presenteremo a tutte le istituzioni, a tutti gli stakeholder, partendo da ovviamente la Commissione Task Force Colao, questo nostro manuale, più di 80 pagine, dove spieghiamo in modo chiaro cosa bisogna fare, come va fatto e soprattutto quanto costa. Allora, ci fermiamo un istante perché dobbiamo dare l'aggiornamento dai mercati finanziari, ma poi torniamo anche su questa vicenda del manuale e sul vostro sito che, Deborah, ovviamente abbiamo già messo a disposizione sul Twitter dal nostro account, e così ho finito con l'inglese. Le borse! Non posso correggerla su nulla perché... Ci ho beccato su tutto. Ci ho beccato su tutto. E quindi... alle volte la fortuna. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Buongiorno, io chiamo da Asti e sono il titolare di un'impresa di pulizie. Sono specializzato in disinfezione, ma vi garantisco che comunque è quasi impossibile lavorare a prezzi decenti, perché c'è molta gente che lavora in questo settore che si fa pagare nulla, e in confronto a noi che dobbiamo sostenere spese di ogni tipo non possiamo andare a lavorare a fare le pulizie a 12-15 euro l'ora come pretende la gente. Questo è un grande problema di questo settore. Alcuni pensano che le pulizie sia un lavoro secondario, ma come dice qualcuno bisogna fare una differenza fra semplici imprese di pulizie e invece imprese che hanno attestati e meriti per fare pulizie specifiche e quindi avere maggiore introito. Beh, devo dire che l'ascoltatore c'è anche, Deborah, infatti, c'è proprio... c'entra... Altro che, ci ha dato un assist perfetto, ma te ne leggo anche un altro di messaggio. C'è anche un ascoltatore pronto ad intervenire. Sono il direttore commerciale di un'azienda di 150 dipendenti di Bergamo. Abbiamo avuto crisi perché il 30% del nostro business è alberghiero. Le dipendenti in cassa integrazione non hanno ancora ricevuto nulla. Ah, scusate. Allora, in realtà questa è un'azienda che si lamenta per altro, non per il comparto appunto delle pulizie, che non credo, peraltro magari faccio fare un ultimo commento a Mattioli, abbia mandato in cassa integrazione nessuno in questo periodo. Credo proprio che siate stati gli unici a potervi permettere di non farlo, Mattioli. Assolutamente, quelli che hanno lavorato nel settore pubblico, quindi quelli che, settori che anzi. Sono rimasti sempre aperti, anzi assolutamente no. Vi faccio però fare una battuta, mi è piaciuta quell'intervista che avete mandato in diretta dell'operatore. Noi ci stiamo battendo proprio per quelle imprese che poc'anzi avete ascoltato, cioè siamo contro questo far west purtroppo causato da questa mancanza normativa, da questa improvvisazione. Nelle ultime ore io stesso come presidente dell'ANIP Confindustria ho ricevuto in questi tre mesi centinaia di migliaia di richieste di iscrizioni di aziende neocostituite, perché è sufficiente avere un direttore tecnico per andare a chiedere ad aprire una Camera di Commercio un'iscrizione per aprire un'impresa. Ecco, questo non è questo di cui stiamo parlando. Il tema della sanificazione e disinfezione è un tema molto importante, molto delicato, va fatto, magari lo dirà meglio di me Massimo Diamante, con particolari macchinari, con particolari procedure che peraltro noi diremo e spiegheremo bene nel nostro manuale, e che non può essere l'improvvisazione, soprattutto dei prodotti da usare. Alcuni prodotti che si stanno usando o si sono usati sono dannosi. Abbiamo avuto diversi casi, quella povera commessa di Valmontone, messa a fare non si sa bene cosa, la quale si è sfigurata il viso e le braccia perché ovviamente ha usato dei prodotti sbagliati senza averne ovviamente competenze e professionalità. Quindi noi siamo contro il far west e siamo a favore delle imprese che sono organizzate e strutturate per fare questo, e in più chiederemo al governo anche di avere una certificazione, cioè una SOA, per fare queste attività. Guardi, c'è un ascoltatore che ha chiamato da Milano, Aziz, che credo voglia proprio anche maggiori informazioni per una sorta di ampliamento della sua attività, se ho compreso bene. Buongiorno Aziz. Buongiorno, grazie per farmi intervenire. La mia domanda è questa, perché io il mio ambito è un'impresa di pulizia e quindi mi è stato molto chiesto di sanificare qua. Mi sono sempre appoggiato a una ditta esterna lasciando il certificato qua e là, però so che c'è in giro una marea di persone che si improvvisano a fare questo lavoro qua, giocando con la... Certo. C'è del materiale da diluire, questo e l'altro. Cioè, non è una cosa semplice, prendi la bomboletta e stare a nebulizzare l'ambiente. La mia domanda è, ma ci sono dei corsi di formazione, c'è un regolamento da seguire o così, terra di nessuno, come mi pare di capire, ecco. Le linee guida anche, no, per fare certi interventi, Mauro, oltre che chiaramente anche garanzia di professionalità degli operatori, degli addetti ai lavori. Allora, sentiamo, ci sarà Diamante, questo manuale, esatto, ci stava dicendo prima il presidente Mattioli, ci sarà questo manuale tra pochi giorni, manuale di pulizia e sanificazione. E cosa possiamo dire di più a questo ascoltatore, che poi è un operatore del settore, Mattioli? Sì, guardi, allora, assolutamente, che tra l'altro questa attività noi la facciamo da sempre, quindi il manuale è proprio uno strumento di supporto che vogliamo dare, soprattutto non tanto per le parti sanitarie, che come puoi immaginare sono ben normate, quindi un appalto di pulizie o di disinfezione di un ospedale, cioè ben scritto su cosa fare e quali sono le attività che vanno ovviamente eseguite. È proprio per la parte, mi lasci dire, non sanitaria, che prima appunto ricordava anche Deborah Sciani nel suo intervento. Se noi pensiamo che soltanto di alberghi parliamo di 37 milioni di metri quadri, piuttosto che di ristorazione 7 milioni di metri quadri, ecco, lì sono stati lasciati e abbandonati alla qualunque, cioè alla disperazione. Allora, il sito, forse non l'abbiamo ancora ricordato, Deborah, è associazione -alto, quello è il segno meno, insomma, anip.it, ANIP, cioè Ancona, Napoli, Imola, Palermo, anip.it. Sì. Deborah, io volevo sentire da Massimo Diamante così come avviene, poi qual è la dotazione, la preparazione anche che bisogna mettere in campo per intervenire appunto e sanificare, disinfettare le superfici e così via. Abbiamo capito che ovviamente ma ci metto anche Mauro, se mi permetti, magari scusami se mi intrometto, ma perché mi piaceva anche segnalarti, mi piacerebbe anche capire se come imprenditore Diamante in questo momento sta cercando del personale, sta ampliando la sua rosa d'azione e se in questo momento è il caso anche di cominciare a rivedere qualche curriculum e di inviarlo a queste aziende appunto in questo comparto, a patto che naturalmente si abbiano anche un po' di minimo di requisiti per poter appunto lavorare in questo settore. Scusami Mauro se ho interrotto. Ma prego, ottima domanda cara collega. Diamanti, buongiorno. Allora, Diamante. Intanto cerco di fare un po' di chiarezza su quelli che sono gli aspetti proprio anche di riferimento ai termini che abbiamo adottato. Allora, la pulizia e la sanificazione sono evidentemente due cose diverse, ma la loro differenza, voglio dire, oggi esiste più nel gergo e nella cultura delle persone che non nella esplicitazione da un punto di vista, diciamo, squisitamente normativo. Per pulizia intendiamo tutto ciò che appaga la vista, ciò che si vede. In buona sostanza, nella nostra cultura, la pulizia è ciò che ad un certo punto ci mette nelle condizioni di giudicare esteticamente, voglio dire, un ambiente pulito. Invece, quando parliamo di sanificazione, e le nostre sono aziende che fanno sempre della sanificazione o dovrebbero fare sempre della sanificazione, significa che asportiamo dalle superfici anche ciò che non si vede. Nell'ambito specifico dell'esigenza Covid è evidente, parliamo di un virus, così come, voglio dire, potremmo parlare in altre circostanze, voglio dire, di batteri. La sanificazione è ciò che mette nelle condizioni di rispondere, oltre alle esigenze di natura squisitamente estetica, anche a quelle più funzionali che sono in qualche modo legate, voglio dire, alla salute. Questo credo che debba essere necessariamente, voglio dire, la premessa per affrontare il resto dell'argomento. Dopodiché c'è un filtro, voglio dire, per fare in modo che non tutti si possano improvvisare in questo settore, perché, voglio dire, anche le procedure e le norme fanno specifico riferimento a codice Ateco specifico, per ciò che riguarda le società che possono fare la sanificazione, così come fanno riferimento all'abilitazione delle imprese, decreto ministeriale del 97, il 274, che fa un riferimento appunto ad un albo delle aziende che possono svolgere queste attività. Peraltro l'ulteriore filtro, e in questo caso è un filtro, diciamo, più di carattere amministrativo fiscale, è rappresentato dal fatto che solo le aziende che hanno queste certificazioni o sono inserite, voglio dire, in questi ambiti possono emettere una fattura che sia detraibile in termini di credito d'imposta, come ben sappiamo. Quindi diciamo che ci sono questi filtri. Dopodiché, voglio dire, se da parte degli utenti, da parte delle aziende, da parte dei clienti, non sempre la cultura necessaria per poter selezionare le aziende di questo tipo. Aspetti, dottor Diamante, perché abbiamo l'appuntamento con la viabilità e siccome stiamo tornando a una certa normalità è importante anche tenersi informati. Ma torniamo tra un istante, davvero. Adesso il traffico. Due di denari. Ho interrotto Massimo Diamante, amministratore delegato di Samsic Italia, un gruppo che si occupa appunto di cleaning a diversi livelli, appunto non solo aggregando competenze tecniche, professionali, operative. Allora torniamo, gli ridò volentieri e subito la parola. Si stava spiegando, oltretutto è importante anche che rivolgersi a una azienda come dire, con tutti i crismi, perché altrimenti non si può avere neanche la giustificazione che ci consente di sfruttare il credito d'imposta. Allora è chiaro che la salute, per carità, viene prima del fisco e ci mancherebbe altro, però anche il fisco potendo, no, che dice Diamante? No, sapevo che avrei fatto una parte antipatica facendo riferimento anche a quelli che sono i risvolti di natura fiscale. Però voglio dire, è giusto dare la corretta informazione. No, ma scusi, lei ha ragione, non vorrei essere frainteso, non volevo fare dello spirito fuori posto. Dico soltanto, appunto, questo fatto di avere una fattura rilasciata da un'azienda che correttamente opera nel settore è importante, ci dà un'ulteriore testimonianza e poi è anche utilizzabile dal punto di vista fiscale. Non volevo mancare di rispetto né al settore naturalmente, ma neanche a questa emergenza, ci mancherebbe. Prego Diamante. Dottore, no, ma ho apprezzato, voglio dire, lo spunto, solo che appunto ritenevo importante dare questa informazione proprio per cercare di orientare anche un po' in questo momento anche di confusione, voglio dire, un po' la consapevolezza degli utenti, dei clienti. L'altro aspetto importante, e qui entriamo sempre nel merito degli aspetti normativi, sono i protocolli redatti dall'Istituto Superiore di Sanità. Questi protocolli si differenziano due ambiti specifici. Uno è l'ambito sanitario e l'altro, voglio dire, è tutto il resto fuori dall'ambito sanitario. È chiaro che nell'ambito sanitario l'attenzione, visto quello che è successo alle problematiche legate all'emergenza Covid, ha una esigenza diversa. Cambia il protocollo, cambiano le procedure, cambia la concentrazione dei prodotti, mentre fuori dall'ambito sanitario rimangono sempre gli stessi riferimenti, voglio dire, ai prodotti, ai clorassidi o all'alcol o a quelli che possono essere appunto i prodotti di riferimento. Sono questi due, secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Ma fuori dall'ambito sanitario parliamo di altre procedure e di altri dosaggi dei prodotti. L'ulteriore differenziazione a cui fa riferimento l'Istituto Superiore di Sanità sono gli ambienti da sanificare dopo aver rilevato la presenza di Covid, e quindi una persona, un utente dei locali che si è ammalato e senza la presenza di Covid. Ci sono sempre dei riferimenti e anche quelli, chiaro, vanno osservati. L'altro aspetto importante che, anche perché volevo rispondere alla dottoressa Rosciani sul discorso occupazionale. Allora, esatto, perché infatti l'avrei riportata anche su questa direzione, perché se non altro, guardi, faccio solamente un piccolo inciso, ci è arrivata adesso una mail di un ascoltatore che è un esperto del settore, che la sta buttando sul tema dell'utilizzo dei disinfettanti negli ambienti sostanzialmente, quindi vorrei riportare la nostra trasmissione su quello che è lo spirito, il tema cioè della ricerca di lavoro in questo ambito, perché non stiamo parlando questa mattina degli ambienti ambienti da sanificare, come, quando e perché, in che contesto bisogna lavorare in condizioni di pulizia, sempre di sanificazione massima, soprattutto in questo momento. A noi interessa capire il tema lavoro, dove ci sta portando, di che professionalità avete bisogno in questo momento e se si sono aperte delle opportunità per qualcuno che magari in questo momento è a spasso e guarda proprio a questo comparto come possibilità di impiego. Dottor Diamante. Allora, ecco, riprendo un attimo l'argomento. È chiaro che, voglio dire, la rivendicazione del nostro settore, delle aziende del nostro settore, della nostra rappresentanza associativa va nella direzione di dire: noi facciamo pulizie e sanificazione, cioè rispondiamo ad esigenze di natura estetica e ad esigenze di natura funzionali. Perché, ripeto, adesso abbiamo questa emergenza che è il Covid-19, voglio dire, ma la problematica di natura batterica o anche virologica, voglio dire, è sempre presente. Di conseguenza è necessario proprio puntualizzare che la cultura, ma proprio anche un po' dell'opinione pubblica, deve un po' cambiare. Non dobbiamo più parlare di pulizie, dobbiamo parlare di igiene e di sanificazione. Questa era la premessa importante. Sul tema occupazionale. Allora, sul tema occupazionale mi sento di poter dire due cose. È chiaro che, voglio dire, gli ospedali hanno lavorato a pieno regime, di conseguenza i servizi nei confronti degli ospedali, delle case di riposo, voglio dire, non ha subito interruzioni, anzi ha subito delle intensificazioni. Verso la clientela privata il discorso è un po' cambiato, perché chiaramente, voglio dire, le fabbriche chiuse, gli alberghi chiusi, i negozi chiusi hanno fatto sì che anche il nostro settore, diciamo, per le attività normali di capitolato tradizionale, voglio dire, hanno subito delle interruzioni, e per questo abbiamo fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. A questo però si è aggiunto il fatto che nella fase di ripresa, poi non tutti chiaramente hanno chiuso, ma nella fase di ripresa ci viene richiesto, oltre all'attività tradizionale prevista a regime, voglio dire, l'attività di sanificazione per poter rispondere ai protocolli che sono stati emanati. Quindi diciamo che ci siamo trovati in una fase in cui sono calati i volumi anche per le nostre aziende, soprattutto quelle che chiaramente si rivolgevano al mercato del privato con le loro chiusure. Ma lì abbiamo avuto a disposizione gli ammortizzatori sociali, dopodiché qui quello che leggiamo è vero sui ritardi, assolutamente, voglio dire, le aziende quando possono noi lo facciamo, perché ci è sembrato assolutamente opportuno farlo, anticipiamo la cassa integrazione, perché i ritardi di cui si parla, voglio dire, sono effettivi. Però adesso nella fase di ripresa stiamo veramente incrementando le nostre attività e stiamo, oltre a chiaramente far rientrare le persone dalla cassa integrazione, avere queste attività induttive che sono quelle che rispondono ai protocolli. Noi, le faccio un esempio, noi siamo un'azienda con 1200 dipendenti in Italia, abbiamo incrementato dal mese di aprile, in buona sostanza da quando sono iniziate le prime riprese ed erano già necessarie le sanificazioni, del 5% il nostro personale. Oggi, dove li cercate, questo, dottor Diamante? Arrivano delle candidature spontanee? Vi rivolgete alle agenzie per il lavoro? Come fate a reperire personale? Guardi, adesso noi, per ciò che riguarda noi personalmente, noi abbiamo anche una società specifica che appartiene al gruppo Samsic e che si occupa e che fa l'agenzia di lavoro interinale, di conseguenza, voglio dire, abbiamo un reclutamento, voglio dire, indotto ed interno, voglio dire, al gruppo. Però chiaramente vedo i colleghi, ecco, normalmente uno ha dei curriculum a disposizione, fa delle selezioni, si rivolge appunto alle società di reclutamento, quindi questo è un po', diciamo, il meccanismo tradizionale che a cui si ricorre per ovviare per rispondere a queste esigenze. Lei prevede che la domanda di maggiore personale proseguirà anche più avanti, cioè nei mesi a venire, in questo secondo semestre del 2020? È la mia speranza, ma non solo per un fatto, voglio dire, di attività, di sviluppo e di prospettiva di crescita dell'azienda, ma perché vorrebbe dire che cambia un po' la cultura di questo paese. Davvero ci mettiamo in una condizione che all'estero è già più presente rispetto all'Italia, che la pulizia non venga vista solo appunto come risposta ad un'esigenza estetica, ma risposta ad un'esigenza igienico-funzionale. Allora, quindi credo di sì, io credo francamente di sì e spero di sì. Allora, io ricordo che il sito della ANIP, dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, dove trovate tutta una serie di informazioni, associazione-alto, quindi il segno meno, associazione-anip.it, lì trovate anche la campagna In Buone Mani, della quale ci ha parlato proprio il presidente Lorenzo Mattioli. E vi ricordo anche su questo sito il contact center di cui sempre ci ha parlato il presidente Mattioli, con questa task force Covid-19, quindi il numero al quale le imprese si possono rivolgere, anche i diversi ascoltatori, cara Deborah, che ci hanno contattato in questa molto ora bene. E che ringraziamo. Siamo arrivati bene. Però in chiusura, domani torniamo parlando di risparmio, penso, è giovedì e quindi giovedì di risparmio, giovedì di investimenti. Allora, esatto, tra l'altro annunceremo anche un'altra grande iniziativa che ci vedrà di nuovo accoppiati ma distanziati. Oh. Non diciamo altro. No, lasciamo questa suspense. Ringraziamo Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP Confindustria, Massimo Diamanti, amministratore delegato di Samsic, e Due di Denari torna domani.